detto è il comunismo, è la fonte di ogni male. Mi hanno detto è assassino, è tiranno, è bestiale. Mi hanno detto sì, è la tomba di ogni vera libertà. E non c'è democrazia dove il rosso ancora sta. Ma io che ti penso sempre e ti cerco con amore, io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Niente eroi né ideologie, e vien facile la rima. Chi sapeva poche palle, perché non l'ha detto prima. Prima che la nostra idea, così rossa e così pazza, ci portasse a lottare e a morire in ogni piazza. Ma io che ti penso sempre e ti cerco con amore, io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Mi hanno detto si può fare di bei fiori una gran serra, dando la democrazia, acqua nuova e nuova terra. Mi va bene, ma io dico, non facciamo confusione. Se io sto con chi lavora, io non sto con il padrone. Ma io che ti penso sempre e ti cerco in ogni luogo, e ti penso ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Io ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Noi abbiamo un gran bell'orto che può crescere assai bene, se ci lavoriamo tutti, dico, e tutti quanti assieme, senza voglia di potere, personale opportunismo. Se vogliamo questo bene, io lo chiamo comunismo. Perché io ti penso sempre e ti cerco con amore, e ti sogno ancora come un segno rosso, rosso un fiore. Che io te penso sempre e ti cerco con amore, e ti suona ancora come un suono rosso, rosso un fiore. Io ti sogno ancora come un sogno rosso, rosso un fiore.